Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Abbiamo affrontato spesso il tema della diversità, dei pregiudizi con i quali si stabilisce a priori cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, chi è normale, chi è diverso, e tutto questo lo abbiamo visto, abbiamo condotto anche noi, come tanti, delle piccole battaglie in tal senso, perché questo è un tema che è vicino al mondo della musica, ma anche dello sport, dell'arte. Ecco, oggi parliamo di sport, parliamo di un campione olimpionico che è stato il re indiscusso della sua specialità, i tuffi. Un uomo che è stato capace di ottenere i punteggi più alti mai assegnati nella storia di questo sport, eppure un uomo che ha avuto una carriera e quindi una vita interrotta proprio da eventi assolutamente estranei allo sport, eventi che riguardano un atteggiamento sbagliato nei confronti dell'omosessualità. Oggi raccontiamo la storia di Greg Louganis. 1960, California, Peter e Francis Louganis, che sono una coppia americana di origine greca, come si desume dal cognome, adotta un bambino, un piccolo bambino, originario delle isole Samoa. Lo chiamano Gregory Eftimos e sembra una bella storia americana, un bambino fortunato che trova una coppia disposta a dargli amore. Però non è così, perché intanto il padre, e qui questa non è una novità, ahimè, della nostra trasmissione, è un uomo che ha problemi con l'alcol, non è capace di esprimere l'amore che un bambino sta cercando. Il rapporto tra Greg Louganis e il padre è uno di quei rapporti che lasciano profonde ferite nell'animo di un bambino. Sono stato adottato quando avevo 8 mesi e mezzo. Mia madre mi ha sempre regalato un amore profondo e incondizionato, mentre mio padre mi ha sempre fatto sentire come se dovessi guadagnarmi il suo amore, come un premio. E qui si sfiora un argomento di cui ho parlato spesso con miei amici gay, cioè omosessuali, si nasce o si diventa? Naturalmente io non ho la risposta, però guarda caso qui partiamo già da una storia con una madre iper affettuosa nei confronti di un figlio e un padre che invece, come dice lui, si fa sentire come fosse un premio, guarda caso. Il medico di famiglia consiglia alla famiglia di far fare un po' di sport al bambino, così lui a 3 anni va a lezione di danza, è una passione che porta avanti fin dall'adolescenza, ma per Greg Louganis non è un periodo facile. La mia pelle era più scura di tutti gli altri bambini e a scuola c'era sempre qualcuno pronto a farmelo notare. Mi prendevano in giro, mi chiamavano negro, finocchio, mi davano del ritardato perché avevo molte difficoltà nella lettura. Eh sì, perché Greg soffre di dislessia, però a quei tempi la dislessia non esiste, non è una malattia o comunque una sindrome che viene considerata, nessuno è in grado di capire le difficoltà di questo bambino che non riesce a leggere. I bambini, lo sapete, a volte sanno essere spietati, insomma Greg ha molte difficoltà nel farsi accettare. Poi un giorno in piscina prova a tuffarsi dal trampolino e ha una sensazione che gli cambierà la vita. Gli esercizi per la danza, che sono tutti incentrati sulla coordinazione dei movimenti, danno i loro frutti. Insomma, Louganis riesce a tuffarsi con estrema facilità, inizia a allenarsi e migliora di giorno in giorno. Nel 75 Greg Louganis a 15 anni viene notato da un ex campione olimpico di tuffi, si chiama Sammy Lee, che decide di diventare il suo allenatore, perché questo Sammy Lee ha capito che il ragazzo ha delle potenzialità enormi, che può tranquillamente arrivare al traguardo di ogni sportivo, cioè le Olimpiadi. Così nel 76 Greg, a soli 16 anni, è già a Montreal contro i migliori tuffatori del mondo. Tra questi campioni ce n'è uno che alla sua 4ª Olimpiade, nelle 3 edizioni precedenti, ha vinto 1 argento e 2 ori dalla piattaforma. È un mito per tutti. Greg è vinto dalla soggezione nel trovarsi di fronte a un campione così importante. e infatti dopo una splendida gara sbaglia il tuffo decisivo, arriva secondo, medaglia d'argento, ma tutti rimangono impressionati dalla bravura, dall'eleganza di questo ragazzo, dal fisico perfetto. Lo stesso DiBiase, perché è di DiBiase che stiamo parlando quando parliamo del mito che, davanti al quale Greg è emozionato, DiBiase pare che gli abbia detto sul podio: continua a allenarti, vedrai che tra 4 anni sarai al mio posto, sul gradino più alto. Torna a casa, i giornali locali lo considerano un eroe. Insomma, si può pensare che Louganis sia riuscito a conquistare il rispetto dei compagni di scuola. Invece sentite come risponde durante un'intervista televisiva al giornalista che gli chiede se i suoi compagni di scuola lo hanno accolto bene. No, I think I got the No, direi che non è andata proprio così. Loro pensano a sport come il football, in cui bisogna essere forti e mostrarsi dei duri. Per loro io rimango sempre una femminuccia che si tuffa in piscina. Ed è dura, veramente dura. E a 16 anni un ragazzo vive un momento difficile a livello psicologico, perché è l'età dei cambiamenti, delle scelte, e se già questo incatenarsi e scatenarsi di sensazioni appare difficile per un ragazzo che non ha problemi caratteriali, figuriamoci cosa può accadere a un giovane che soffre di dislessia, che è vittima del bullismo dei compagni, che combatte dalla nascita una sua guerra personale per farsi accettare, per farsi amare. Nell'animo di Greg cominciano a profilarsi dei dubbi, quelli che lo portano a mettere tutto in discussione, anche la sua sessualità. Il falco e il gabbiano. E dopo l'argento di Montreal, Sammy Lee capisce di non essere in grado di gestire da solo un campione potenziale quale è Greg Louganis, perché la preparazione a una Olimpiade non è solo questione di allenamento di muscoli, di correzione della tecnica. Quello che fa la differenza tra un campione e un altro, tra un campione e un potenziale campione, è un equilibrio mentale, una sicurezza nell'affrontare i propri limiti, nell'affrontare delle paure che possono condizionare un risultato, addirittura più di un infortunio. Insomma, è il momento di farsi affiancare da un altro grande allenatore, il migliore di quel momento, Ron O'Brien. Eh sì, perché Ron O'Brien è uno che ha vinto 12 medaglie d'oro, 3 argenti e 4 bronzi solo alle Olimpiadi. È uno che ha allenato atleti che hanno portato a casa molti risultati, 350 i titoli conquistati da allenatore in 20 anni di carriera. La filosofia di Ron O'Brien è una combinazione di allenamento fisico e psicologia per entrare in simbiosi con l'atleta, per capire i suoi punti deboli e farli diventare dei punti di forza. Le vittorie sono il frutto di forza fisica e di concentrazione. Passavo le giornate in piscina a commentare: bel tuffo, perfetto, così va bene. Per Greg tutto sembrava facile e ho capito che per ottenere il meglio dovevo chiedere a lui molto più di quanto chiedessi agli altri. Non mi aspettavo da lui ottimi tuffi, mi aspettavo la perfezione. Look at this. Greg Louganis scores perfect 10. And in first place from Mission Viejo, Mr. Greg Louganis, coached by Ron O'Brien. Campionati mondiali di Guayaquil nel 1978, Louganis effettua il tuffo perfetto, ottiene il punteggio massimo possibile, tutti 10, il perfect 10, quello che fino a quel momento nessun tuffatore aveva mai conquistato. È un ragazzo bellissimo, tutti lo ammirano sul trampolino, è lo stesso che a 10 anni beveva e fumava, è lo stesso che soffriva di depressione, che aveva tentato il suicidio. Oggi i tuffi sono l'unica via d'uscita, il suo riscatto. E vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca dell'80 per Louganis rappresenterebbe molto di più di una semplice vittoria, sarebbe il riscatto contro tutti quelli che fino a quel momento lo hanno preso in giro, l'hanno tenuto in disparte invece di cercare di empatizzare e di capirlo. And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Questo è il famoso discorso di Jimmy Carter che ha gettato nello sconforto migliaia di atleti del blocco occidentale, perché è il discorso con il quale Carter annuncia il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca. Insomma, il destino ha messo i bastoni tra le ruote a Greg Louganis. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, allora ancora eterni rivali, passano di guerra fredda in guerra fredda. Carter comunica la decisione di non inviare atleti alle Olimpiadi di Mosca per rappresaglia per l'invasione dell'Afghanistan. Per Louganis e per tutti gli atleti che si stavano preparando per l'Olimpiade è un colpo durissimo che rende ancora più chiuso e introverso un ragazzo che già si relaziona con molta difficoltà col mondo esterno. E Louganis, dopo aver smaltito la delusione per non aver potuto partecipare alle Olimpiadi di Mosca, si rimette al lavoro per l'appuntamento successivo, Los Angeles 1984. Questa volta si gioca in casa. È evidente che non potrà esserci un auto boicottaggio. Potrebbe essere un fattore positivo, però non è così, perché ancora una volta l'invidia, l'ignoranza dei ragazzi che per anni si sono scagliati contro il piccolo Greg si fa sentire ancora. Vengono tirate le somme con giudizi sommari. All'interno della squadra statunitense nasce una specie di comitato occulto. Beat the fag, sconfiggi la checca. E Ron O'Brien naturalmente se ne accorge, perché è un grande psicologo, vede che Louganis parla sempre meno durante gli allenamenti, risponde a monosillabi, sta a braccia conserte in un atteggiamento di difesa, e dopo molte sessioni di allenamento passate a tuffarsi ma anche a parlare, alla fine Louganis decide di aprirsi verso il suo allenatore, gli confessa la sua omosessualità. È un primo timido colpo d'ala per cercare di superare quelle barriere mentali che ne stanno condizionando le performance. O'Brien ascolta con calma la confessione di Louganis e risponde con un semplice I don't mind, non mi interessa, non mi importa. Da quel momento O'Brien però capisce che il lavoro più importante da fare non è sul corpo di Louganis ma sulla sua mente. Lui ha bisogno di acquisire un altro tipo di sicurezza. Il 21enne tuffatore sovietico Sergei Chebilashvili si è fratturato la testa dopo aver urtato la piattaforma durante un tuffo di allenamento che precedeva la gara. Siamo nel 1983, manca un anno alle Olimpiadi. Louganis è già l'uomo da battere, ma il suo grande rivale è Sergei Chalibashvili. Ai mondiali a Edmonton il russo tenta il tuffo che è la punta di diamante di Louganis, quello che i giudici classificano come 307C, che gli atleti chiamano il tuffo della morte, perché è un triplo salto mortale carpiato. Questo significa che si salti in avanti ma si comincia a girare all'indietro, la testa sfiora pericolosamente la piattaforma di cemento da cui si è appena saltati. Il russo sbaglia qualcosa, sbatte la testa, se la frattura e morirà dopo essere stato in coma per alcuni giorni. Louganis era lì perché questo era un tuffo di allenamento prima della gara. Louganis era presente, da una parte vuole essere il migliore ma sta provando un senso di colpa per la morte del russo che era morto proprio nel tentativo di imitarlo, di essere come lui. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Greg Louganis, il tuffatore americano che a soli 16 anni aveva sfiorato il gradino più alto del podio alle Olimpiadi, quasi aveva battuto il nostro immenso Klaus DiBiase. Louganis è un atleta che ha iniziato a tuffarsi per sfuggire, insomma, a una realtà che non gli piaceva, tra bullismo e segreti inconfessabili, almeno che lui riteneva fossero inconfessabili. Lui è di origini samoane, è stato adottato e quindi tutta la sua infanzia è stata costellata da questo razzismo, bullismo, la voglia di dimostrare di essere all'altezza dei suoi compagni e poi questo padre assente, alcolista, questo padre che lui voleva conquistare mentre invece era sommerso dall'amore della madre. Ma ora ci stiamo preparando all'Olimpiade di Los Angeles dell'84, l'Olimpiade del riscatto, quella in cui tutti gli atleti americani volevano dimostrare quanto mutilate fossero state le Olimpiadi del 1980, quelle di Mosca, con il boicottaggio di tutto il blocco americano, ma Louganis è alle prese non tanto con i tuffi, è alle prese con la sua insicurezza nel relazionarsi con gli altri. Lui ha questa verità nascosta, lo ha detto solo al suo fidato allenatore Ron O'Brien, il suo segreto, cioè il fatto di essere omosessuale. Ovviamente non può permettersi di manifestarlo pubblicamente perché siamo agli inizi degli anni Ottanta, e poi arriva un'altra tegola medica, cioè arriva la malattia che colpisce i drogati e gli omosessuali, l'AIDS, la peste moderna, come la definiscono gli americani iperbenisti, ottusi, insomma non ci si può permettere di parlare di certi argomenti, soprattutto se sei l'orgoglio di una nazione che vuole da te soltanto una cosa, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di casa. E Louganis le medaglie le vince, incanta il pubblico di tutto il mondo, primo nei tre metri, nel trampolino da tre metri e nella piattaforma da 10. Supera per la prima volta nella storia dei tuffi il muro dei 700 punti, 710,91. È veramente un colpo d'ala carpiato, un colpo che cancella anni di insicurezze, di invidia. Adesso Greg Louganis per il suo paese è un eroe, è un esempio da imitare. E questo in un certo senso peggiora la situazione, perché lui ha sulle spalle un peso che è ancora più pesante, e intanto iniziano le ospitate nei programmi televisivi. Louganis però non viene chiamato come testimonial di un prodotto o di un altro, perché se questo fosse accaduto avrebbe potuto guadagnare dei soldi e rendersi indipendente da questo Jim Babbitt. Questa è una figura chiave, perché è il suo manager, che però è stato anche suo amante. Jim Babbitt comincia a ricattarlo, minaccia di rivelare a tutto il mondo la loro relazione. In quel periodo c'era molta vergogna nell'ambiente gay. La maggior parte delle persone esprimevano giudizi sommari sulle persone malate. Era la malattia degli omosessuali, delle prostitute, dei drogati. Rivelare al mondo il mio segreto sarebbe stato un suicidio. This is suicide. Eh sì, perché negli Stati Uniti tu puoi essere un esempio per tutti a meno che non venga messa in gioco la tua virilità. Lo sapeva Rock Hudson, che nell'84 aveva scoperto di essere malato di AIDS e che per anni aveva recitato la parte, non solo sul set ma proprio nella vita, la parte del rubacuori, dell'uomo circondato da donne, e invece era esattamente il contrario. Lo sa anche lui, Greg Louganis, perché su di lui hanno sempre circolato quelle voci sospette che lo perseguitavano fin da quando era bambino. You'll never know how much I really love you. Ma il tempo corre veloce, c'è già un'altra Olimpiade all'orizzonte, Seoul 1988, e ancora una volta Greg Louganis arriva all'appuntamento come l'uomo da battere, perché intanto ai mondiali dell'86 aveva dominato sia dalla piattaforma che dal trampolino, e a Seoul lui è quasi obbligato a vincere ancora una volta la doppia medaglia d'oro. Però nei pensieri di Louganis adesso c'è un nemico nascosto, c'è un terribile segreto, è quello che lui ha avuto il coraggio di rivelare solo al suo allenatore Ron O'Brien, quello che aveva risposto ai Don't Mind, ma solo lui. In quel periodo stavo ancora con Jim e lui si ammalò. Aveva difficoltà respiratorie e allora mi chiese di fare il test, perché era un periodo in cui tutti avevamo molta paura e bastava un raffreddore per pensare al peggio. Alla fine feci il test e risultai positivo. O'Brien è il vero padre che Louganis non ha mai avuto, e lo convince ad andare avanti, a non mollare, a continuare a allenarsi. Essere sieropositivi in fondo non vuol dire essere malati. Insomma, lui si presenta all'appuntamento delle Olimpiadi in perfetta forma fisica, nulla lascia trasparire il suo segreto, la sua malattia. Si arriva al giorno delle gare e in quelle Olimpiadi Greg Louganis vince ancora due ori, entra nella storia. Durante le qualificazioni dal trampolino, però la testa di Luganis sfiora questo trampolino. Lui si procura un taglio, inizia a uscire sangue, la ferita viene chiusa, la gara prosegue, niente di grave. Era un taglio superficiale, diciamo. Però Luganis viene a contatto con la paura di contagiare qualcuno, per esempio il medico che di corsa a mani nude aveva tamponato la ferita. Insomma, qualcosa cambia nell'animo del tuffatore. Lui capisce, non si tratta più solo di dimostrare di essere il migliore, adesso entrano in gioco altri equilibri, altre situazioni. Lui è di fronte a una scelta importante, è una scelta che riguarda il cambio radicale della sua vita, perché fino adesso lui aveva preso degli antivirali per contenere la possibilità di sviluppare la malattia, ma la sua attività agonistica ormai è di fatto incompatibile con la sua sieropositività. Questo vuol dire che il 307C, cioè il tuffo della morte con cui Luganis vince la sua quarta medaglia d'oro a Seul, sarà anche il suo ultimo tuffo. E dopo le Olimpiadi dell'88 Luganis si ritira dalle scene, niente più gare e neanche partecipazioni televisive, decide semplicemente di sparire, di farsi dimenticare per non avere più a che fare con le sue paure, il suo carattere chiuso e introverso che non gli aveva mai permesso di aprire il cuore. Nel 1995 riappare, pubblica una sua autobiografia e qui racconta tutta la sua carriera e tutto quello che riguarda la sua vita privata. My name is Greg Louganis. I'm gay and I'm HIV positive. E la notizia rimbalza da un telegiornale all'altro. Il nome di Luganis viene affiancato a quello di Arthur Ashe e di Magic Johnson e di tutti gli altri personaggi famosi che prima di lui hanno rivelato di essere sieropositivi. Adesso che la verità viene a galla, che non c'è più nulla da nascondere, lui fa pace con se stesso e vive la sua vita finalmente da persona normale. Nel 2012 però c'è un clamoroso ritorno sulle scene, perché forse riconciliarsi con i propri fantasmi ti fa venire voglia di metterti di nuovo in gioco. Accetta di diventare assistente preparatore della nazionale americana di tuffi che parteciperà alle Olimpiadi di Londra. È uno scatto d'orgoglio, vuole riportare un oro olimpico nei tuffi agli Stati Uniti, quell'oro che manca da 24 anni dal suo tuffo della morte di Seul. Udaya becomes the first American male diver to win a solo diving gold in the 10-meter platform since Greg Louganis. E il miracolo riesce. David Udaya vince la medaglia d'oro nella piattaforma da 10 metri proprio sotto gli occhi di quell'uomo che aveva stupito il mondo con la sua eleganza, quello che aveva stabilito un record di punteggio che a tutt'oggi è ancora imbattuto. Luganis nel frattempo si è sposato con il suo attuale compagno, ha trovato un equilibrio anche nella sua vita privata, forse anche grazie al fatto che oggi anche nella becera America l'atteggiamento comune verso la comunità omosessuale ha cominciato a cambiare, insomma qualcosa è migliorato anche lì. Il colpo d'ala di Greg Luganis, al di là di tutti i colpi che è riuscito a dare volando sulla piattaforma e volando dal trampolino, il vero colpo d'ala è stato quello di riconciliarsi con se stesso, con le sue paure, con i suoi fantasmi, con il suo senso di incompiuto. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci se anche voi conoscete qualcosa che merita di essere raccontato, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24 oppure sui miei social, su Facebook, su Twitter, sui nostri social, insomma se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.